cerimoniale del rito. Dopo aver formulato mentalmente o sottovoce a fior di labbra l'intenzione di eseguire il rito di adorazione del tempo in cui il Musalli si trova, egli dà inizio al rito con Takbiratul Ihram, alza le mani al livello delle orecchie, con le palme in avanti e dice Allahu Akbar. Dire Allahu Akbar si chiama Takbir e questo Allahu Akbar si chiama Takbiratul Ihram, che significa il Takbir della consacrazione. Dopo il Takbir della consacrazione, il Musalli abbassa le mani appoggiandole sul petto, mette la mano sinistra a contatto con il corpo e con la mano destra impugna il polso del braccio sinistro. Questa posizione si chiama in arabo qira'a, che significa recitazione. In questa posizione il Musalli dà inizio alle recitazioni. La prima recitazione è al-istiftah, che è la giaculatoria introduttiva. Il testo è il seguente: Subhanakallahumma wa bihamdika وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. Gloria a te, o Allah, e lode a te. Benedetto è il tuo nome ed esaltata la tua maestà. Non c'è divinità tranne te. Dopo al-istiftah, il Musalli recita mentalmente e sottovoce a fior di labbra A'udhu billahi minash shaitanir rajim, che significa chiedo protezione ad Allah contro Satana il lapidato. Questo si chiama At-ta'awwudh. Allah rifulga lo splendore della sua luce, ha ordinato di chiedere la sua protezione contro Satana il lapidato prima di iniziare la recitazione del sublime Corano. Dice Allah, rifulga lo splendore della sua luce, alla sura 16, aia 98, fa iza qara'tal Qur'ana fastaiz billahi minash shaitanir rajim, cioè quando reciti il Corano chiedi protezione ad Allah contro Satana il lapidato. Dopo la recitazione dell'atta'awwud ha inizio la recitazione di Suratul Fatiha. Il Musalli, dopo aver recitato la richiesta di protezione, quando il rito di adorazione che sta eseguendo è quello dell'alba, oppure quello del tramonto, oppure il rito d'adorazione della notte, recita vocalmente la prima sura del sublime Corano, Al-Fatiha.